Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ben trovati a Salva Danaio, buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, buona giornata, nonostante il tempo abbiamo ricominciato a rivedere la pioggia e allora magari così vi costringerò un po' di più a stare in casa, ad ascoltarci. Oggi parliamo di un bell'argomento, un argomento che abbiamo già affrontato a Salva Danaio. Torniamo a parlare di campagna, di prodotti della terra, dei nostri acquisti fatti direttamente dal produttore. Sì, perché i farmer market, tema che a Salva Danaio abbiamo affrontato spesso, stanno crescendo molto nel nostro paese e proprio per il fatto che i mercati del contadino stanno spuntando come funghi in molte città, il Sole 24 Ore si è fatto questa domanda: come orientarsi in questa sempre più ampia rete di vendita, come districarsi nell'offerta delle fattorie, come fare ad essere sicuri che le zucchine, le melanzane o altri ortaggi o la frutta che acquistiamo siano stati coltivati non più lontano di 100-150 chilometri da casa nostra, perché la filosofia che ispira queste attività è proprio questa. Allora, come dicevo, il tema occupa stamattina il primo piano delle pagine di affari privati del Sole 24 Ore. Noi oggi abbiamo deciso di rifare un punto della situazione perché è un tema che affascina e che piace a molte famiglie, ma vogliamo capire anche come si sta evolvendo questo mondo preso sempre più a riferimento appunto da molte famiglie del nostro paese. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Questa mattina abbiamo un nutrito gruppo di ospiti, la collega del Sole 24 Ore che si è occupata di questo argomento per il quotidiano Oggi, Anna Maria Capparelli. Poi avremo con noi Tony De Amicis, direttore della fondazione Campagna Amica di Coldiretti, Roberto Burdese, presidente di Slow Food Italia, ed Elena Rovera, presidente della cooperativa Cornale di Magliano Alfieri. Vi ho ricordato il numero verde per intervenire, vi ricordo anche il numero che avete a disposizione per scriverci: 349-238-6666. La borsa la monitoriamo molto attentamente perché oggi era atteso il giudizio dei mercati rispetto al via libera da parte dell'Eurogruppo del maxi prestito triennale Unione Europea Fondo Monetario Internazionale a sostegno della Grecia, un sostegno finanziario da 100 miliardi di euro. Stamattina la borsa era partita male, poi è peggiorata, poi è migliorata, poi è ripeggiorata. Comunque ancora abbiamo un quadro negativo, migliore rispetto al nostro ultimo collegamento, diciamo delle 11.30. Parigi perde lo 0,7%, Francoforte lo 0,28%, Milano meno 0,13% sul FTSE MIB. Oggi Piazza Affari è quella che tiene un po' di più, Londra chiusa per festività come lo sono state stamattina numerose piazze asiatiche. C'è da dire che secondo gli operatori oggi il quadro è negativo non tanto per il giudizio sul sostegno greco da parte dell'Unione Europea, quanto invece per la nuova stretta delle autorità cinesi al sistema bancario, e questo appunto stamattina è stato il fattore che pare abbia penalizzato un po' di più le contrattazioni. L'euro sul dollaro a 1,3230, Milano oggi titoli positivi, Pirelli più 2,76 Ansaldo, più 2 Fondiaria, più 1,53 Unipol, più 1,45 Bulgari, più 1,28 Exor, più 1,23%. Segno meno invece per Prismian, che perde 1,5 punti con Azimut. In calo anche Saipem di 1 punto, nonostante un'importante commessa ad Abu Dhabi. Finmeccanica meno 0,98, Italcementi meno 0,93%. Petrolio fra gli 86 e gli 87 dollari al barile. Vi ricordo una notizia prima di andare al tema di oggi, ai Farmer Market, che stamattina, anzi è cominciata credo da poco, è stata organizzata dall'ambasciata della Repubblica Argentina in Italia una conferenza stampa per presentare la nuova offerta di scambio per i bond argentini, con la partecipazione anche di Amado Boudou, ministro dell'economia e finanze argentino. Noi di questo argomento riparliamo domani a Salva Danaio. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina, ritorniamo a parlare dei prodotti che le famiglie italiane decidono di acquistare direttamente nelle fattorie, dai produttori. Sentiamo. Da chi produce a chi consuma. Negli ultimi anni sembra essere questa la tendenza che ha in parte soppiantato i classici tradizionali carrelli della spesa. Aumentano i prodotti di agricoltura biologica sugli scaffali dei supermercati, proliferano i gruppi di acquisto solidale e i mercatini bio. Per non parlare della diffusione sempre più capillare dei farmer market, vale a dire i mercati del contadino, destinati alla vendita diretta di prodotti della campagna. Lo scorso anno, ben 7 italiani su 10 hanno fatto acquisti direttamente da un agricoltore almeno una volta. Sintomo che anche in Italia sta prendendo piede questo fenomeno, ben noto in altri paesi europei come Francia e Germania, ma anche negli Stati Uniti, che hanno visto un aumento dei farmers market del 53% negli ultimi 10 anni. I vantaggi di queste realtà che consentono di acquistare olio, frutta, vino e formaggi sono molteplici. Si acquistano prodotti di qualità a prezzi contenuti, vengono eliminati tutti i passaggi della filiera agroalimentare che vanno dalla produzione alla vendita con un forte abbassamento dell'impatto ambientale, si privilegiano i prodotti di agricoltura locale, incentivando le attività della zona ed eliminando i costi di trasporto e le emissioni inquinanti. In fondo, si tratta di una modalità di compravendita che segue la linea del chilometro zero, con spese ridotte per trasportare merce e prodotti che giungono direttamente dai campi al banchetto che li vende. E allora, raccontateci un po' il vostro stile di vita. Vi siete convertiti anche voi al farmer market oppure continuate ad acquistare frutta e verdura al supermercato? Però c'è da dire che anche la grande distribuzione sta cercando di mettere sui banchi prodotti di qualità e acquistati, come dire, in ambito piuttosto vicino dal punto di vista territoriale, anche perché insomma la grande distribuzione è sempre sotto accusa per l'esplosione dei prezzi, per quanto allunga la filiera e per quanti i prezzi si moltiplicano proprio per i vari passaggi che si fanno dal produttore al banco del supermercato. 800 24 00 24, questo è il vostro numero verde. Cominciamo il giro di chiacchierata con la collega del Sole 24 Ore, Anna Maria Capparelli. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno Deborah. Benvenuta. A Roma c'è un po' di sole, quindi meno male. Qua io temo che non lo vedremo ancora per qualche giorno, insomma questa finirà maggio e saremo ancora sotto questa cappa di pioggia e quant'altro. E in effetti con il sole, col bel tempo, è incentivato il consumatore ad acquistare nei mercatini. Infatti, ecco, pure questa ci si mette di traverso al farmer market, ma probabilmente non si è messo tanto di traverso il cattivo tempo negli ultimi anni, perché questi luoghi anche d'incontro, certo, spesso e volentieri hanno avuto un grande successo. Allora, tu sul sole questa mattina spieghi molto chiaramente, sì, che c'è stato nell'ultimo tempo un boom, un grande pullulare di mercatini, così lo definisci, che però, certo, rischia di diventare una giungla indistinta per i consumatori. Questo tra l'altro è un settore anche molto ben disciplinato dal punto di vista legislativo, Anna Maria. Ma guarda, sì, è stato disciplinato dall'ex ministro Paolo De Castro, che è l'attuale presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, e lui ha fatto un decreto legislativo in cui ha dettato alcune regole proprio per evitare che ci fossero dei commercianti che si travestissero da agricoltori. Questo era il rischio, e quindi ha dettato delle regole, ha affidato la responsabilità ai comuni, però ha deciso appunto che fossero soltanto i veri agricoltori a poter vendere in questi mercatini. Il problema è che è un decreto ministeriale, insomma, poco cogente. Invece l'attuale ministro Zaia aveva varato una legge più strutturata, un vero e proprio disegno di legge, che però si è fermato, ha avuto un'approvazione preliminare al Consiglio dei Ministri e non è andato avanti, e questo disegno di legge era ancora più rigoroso e definiva ancora meglio il chilometro zero e blindava veramente al chilometro zero queste vendite, e inoltre, come dici tu, apriva anche delle possibilità di spazio nella grande distribuzione, però sai che questo è un discorso molto complesso, perché i mercatini trovano un po' l'ostilità, diciamoci la verità, sia della grande distribuzione sia del commercio organizzato, sono vecchie polemiche, diciamo. Infatti. E tra l'altro lui prevedeva anche una riserva di spazio del 20% nei mercati rionali. Questo disegno di legge è stato varato al Consiglio dei Ministri, ma poi sai, ci sono state le elezioni, il ministro è andato a fare il governatore, ora non si sa che cosa succederà di questo disegno. Intanto però c'è un problema, che è quello, come dicevi tu, per il consumatore di districarsi in questa vera e propria giungla, soprattutto nelle grandi città, perché sai, sul territorio magari c'è un controllo più facile, ma in una grande città come Milano, Roma, a Milano hanno aperto di recente questo farmer market a Via Ripamonti, dove nel consorzio agrario di Milano, dove peraltro c'è anche una beauty farm, c'è anche, quindi come dicevi tu, sono luoghi anche di appuntamento, luoghi dove ci sono gli artigiani, dove puoi assistere alla trasformazione del prodotto. A Roma c'è uno splendido mercato a San Teodoro, nel cuore di Roma, però ce ne sono tantissimi anche vicino ai supermercati. Cioè il consumatore viene attratto sicuramente dal prezzo contenuto, dalla qualità, ma è veramente questa? Sicuramente un vostro ospite in studio vi spiegherà che la Coldiretti, che ha varato questo sistema di certificazione. Esatto, non solo, ecco, l'ha fatto Coldiretti, l'ha fatto anche Slow Food, certo, esattamente. Adesso ce li facciamo raccontare. Ti interrompo? Però sì, guarda, anche le altre, anche i comuni, perché queste normative, sia quella di De Castro che quella di Zaia prevedono che il comune definisca un vero e proprio disciplinare per questi mercati, quindi teoricamente il consumatore, quando vede queste insegne o del comune, dovrebbe avere la garanzia che sono i veri mercatini degli agricoltori, dove è assicurato uno sconto del 30%. E infatti non vorrei che poi prodotto. Ci fosse un accavallarsi di bollini, quindi certo. Certificazioni che arrivano da ogni dove, poi anche lì diventa un'altra giungla, un'altra selva entro la quale orientarsi. Grazie Anna Maria, adesso ritorniamo da te. Peraltro hai toccato il tema prezzo, perché in realtà ci sono molti ascoltatori che ci stanno già scrivendo e segnalando, ce ne sono già tanti in linea, incredibile questa mattina, che comunque non sempre questi luoghi sono i luoghi del risparmio in termini di prezzo. Si compra ovviamente sicuramente una grande qualità dei prodotti che vengono messi in commercio, ma sulla questione prezzo c'è un po' di, come dire, una serie di opinioni conflittuali. Adesso daremo voce anche agli ascoltatori su questo punto, però volevo andare a Toni Di Amicis, responsabile della Fondazione Campagna Amica di Coldiretti, la rete di vendita più estesa sul territorio nazionale. Qual è, De Amicis, la filosofia che ispira il vostro lavoro? Perché so che avete un disciplinare, lo diceva anche la collega, molto rigido. Non tutti gli agricoltori associati a Coldiretti possono anche assumere la veste di farmer market. Quindi quali sono le regole per far parte di questo gruppo? Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Noi lo sforzo che stiamo facendo è quello di coniugare gli interessi del consumatore con quelli del produttore. Crediamo che alla fine possano coincidere, e questo mi sembra che nei nostri mercati sta avvenendo. Noi ormai abbiamo una rete molto consolidata in Italia, che va dalla Sicilia fino al Trentino. Ormai abbiamo circa 600 farmers market che aderiscono a noi. Abbiamo, a proposito di confusione, nei nostri non si può fare confusione, perché abbiamo un marchio distintivo. Nei nostri mercati prevale il giallo, il marchio è punto Campagna Amica, i nostri mercati si chiamano mercati di Campagna Amica. Il consumatore ormai li sa riconoscere molto bene, perché i nostri segni distintivi li ha molto ben memorizzati. Tra l'altro siete 600, sono 600 in Italia in questo momento, con l'obiettivo di diventare almeno 1000 entro la fine dell'anno? Esatto, questo è il nostro obiettivo, e credo che ce la faremo, perché guardi, stanno andando tutti molto bene. Addirittura siamo stati aperti, per esempio, questo fine settimana, il 1° maggio, stavamo all'Auditorium di Roma. Ecco, benissimo, con tutta la polemica sui negozi aperti o meno, voi invece c'eravate senza alcun problema, senza lì. Polemiche. Eravamo lì, c'era un sacco di gente, e per esempio l'abbiamo coniugato con la musica. C'era un bellissimo concerto di musica popolare di Ambrogio Spalagna la sera, i cittadini hanno fatto la spesa fino al pomeriggio, poi hanno assistito al concerto, sono tornati a casa con benissimo. De Amicis, però ci dica, che prezzi si trovano in questi, guardi, in questi luoghi? Abbiamo lanciato una definizione, il nostro lo chiamiamo prezzo amico, e il concetto è questo: noi diciamo che fare la spesa nei nostri mercati è piacevole, comodo e conveniente, perché il prezzo pagato vale davvero il prodotto acquistato. E questo è il primo grande valore che noi in tutti i mercati in Italia garantiamo al consumatore, cioè che effettivamente i soldi che si spendono sono i soldi giusti per l'acquisto che effettivamente si voleva fare. Non ci sono inganni, quindi se si pensa di comprare, faccio ipotesi, qui siamo a Roma, il carciofo romanesco, lo si paga per carciofo romanesco. Quando si va a casa non si scopre che magari non sa di niente, perché magari è un carciofo che viene dalla Tunisia, che quindi è fuori stagione. Quindi, questo è il grande valore che i consumatori benissimo. Oggi ci stanno è stato chiarissimo. Io mi sono imbattuta anche in Pere dell'Uruguay nel fine settimana, e quindi insomma ho sbarrato gli occhi e con mia mamma, che le voleva comprare a tutti i costi, ma ho cercato di impedire che lo facesse. Eccoci di nuovo in diretta. Stamattina Salvadanaio, come al solito, ha rubato un tema del Sole 24 Ore, quello che appare stamattina su Affari Privati. Ci si rioccupa di nuovo dei farmer market, dei mercati del contadino, dei prodotti agricoli acquistati a chilometro zero. Il tema dell'inchiesta è spesa locale di stagione per tagliare lo scontrino in aumento, gli indirizzi dove comprare direttamente dai produttori. E allora sentiamo subito qualche ascoltatore per poi dare la parola agli altri nostri ospiti: Roberto Burdese, presidente di Slow Food Italia, ed Elena Rovera della cooperativa Cornale di Magliano Alfieri, provincia di Cuneo, ma in realtà forse più vicina ad Assi, poi spiegheremo anche questo. Giuseppina da Roma, benvenuta, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Grazie a lei. Senta, Io vorrei dire, prima di, a lei, di dirlo a lei, vorrei dire una cosa ai nostri governanti, di usare l'italiano, se per caso lo conoscono, visto che si rivolgono sempre in inglese, e se mettono farmer market, sì, il mercato del contadino. Non so come si pronuncia, non lo possiamo sapere perché la lingua inglese è diversa, e io sono stata al mercatino, ho chiesto cosa significa e quasi nessuno lo sapeva. Ah, bene. E questo mi rivolgo alla schizofrenia dei nostri governanti che vogliono mettere i dialetti e poi scrivono anche i testi di legge. Va bene Giuseppina, in andiamo invece al tema vero della trasmissione. No. Lei li frequenta comunque, prendiamo questa sua sollecitazione e la giriamo magari a Coldiretti, loro li chiamano insomma la rete di campagna amica, quindi magari anche noi un po' come giornalisti possiamo fare del nostro e cercare di evitare il più possibile, ma ce lo dicono in molti, Giuseppina, la terminologia inglese. Detto questo, lei li frequenta questi posti e per quale motivo? Io li frequento, ne faccio per una questione di salute, sono obbligata a mangiare solo bio. Sono andata domenica scorsa al mercatino all'ex mattatoio di Roma, chi è di Roma lo sa, e c'era tutto bio, questo, e ho riscontrato intanto che non c'erano assolutamente i cartelli dei prezzi. C'erano tre contadini che vendevano verdure, uno ce li aveva quasi tutti, un altro signore ce l'aveva lo stesso, ma il terzo, che non aveva, questo mi ha sorpresa, nessun prezzo esposto, era quello più affollato. Ah, ecco, così, cosa faceva, una trattativa privata? Come funzionava, Giuseppina? No, lei andava lì che offriva? Non credo. Non vedendo i prezzi, forse il nostro genio di sudditi ci porta, acquistavano quasi tutti lì. Benissimo. E poi i prezzi non li ho trovati con una minima differenza tra i supermercati del bio, diciamo così, e neanche una qualità così Allora pesata, Giuseppina, magari quello non era un mercatino di campagna amica, e magari non era anche un mercatino, probabilmente non lo era perché loro stanno partendo adesso, un mercatino appunto di mercati della terra di Slow Food. Roberto Burdese, ancora buongiorno, non abbiamo avuto modo di salutarla, intanto buongiorno, ci sente, salve. Slow Food, adesso la nostra ascoltatrice si arrabbierà perché abbiamo invitato questa grande organizzazione italiana che ha un nome in inglese, non saprei come poterla definire diversamente. In tutto il mondo per quello che esatto, esatto, quindi non c'è alternativa. Allora, le posso chiedere intanto cosa pensa di quello che ci indicava? Per esempio, voi che state partendo adesso e non siete ancora a Roma perché ci sarete presto a Ciampino, se non sbaglio, imporrete l'esposizione dei prezzi? Perché mi pare il minimo. No, ma guardi, il mercato di cui parlava quella signora io lo conosco, sono andato a visitarlo al Testaccio, a Ponte Milvio. Terra di nessuno. Ogni tanto c'è qualche produttore che è un po' discolo e va richiamato perché magari non espone i prezzi, porta parecchio prodotto tutte le mattine, esporre i prezzi è un lavoro. Io ho visto quel mercato lì, ho visto che ci sono i responsabili di campagna amica che girano e richiamano all'ordine quelli che magari non sono precisi e puntuali. Ho anche comprato alcuni prodotti e avevo riscontrato una qualità media piuttosto elevata, poi dopo è chiaro che dipende sempre dalle situazioni, quindi non voglio mettere in dubbio che magari dipende un po' dalla esigenze personali e anche da quanto si è esigenti in altri termini. Probabilmente la nostra ascoltatrice lo è molto, quindi vuole assolutamente un prodotto di qualità, però stupiva questo fatto che effettivamente non ci fosse l'esposizione dei prezzi e che quello dove addirittura non c'era nessun prezzo segnalato fosse il più frequentato come agricoltore Burdese. Vabbè, quello probabilmente perché aveva i prodotti più buoni, quello è un mercato che c'è già da parecchio tempo, chi lo frequenta, il passaparola funziona più di ogni altra iniziativa di marketing. Esatto. No, ma i prezzi sono da esporre obbligatoriamente. Io però quello che tengo a dire è che dobbiamo fare attenzione nel riflettere su questo discorso dei mercati contadini. Noi di Sofur li chiamiamo appunto mercati della terra, che sono un nostro progetto, c'è anche un sito internet dove si trovano le esperienze, per ora sono 7 quelle avviate e ce ne sono altre in partenza. Ecco, è il fatto che sono l'evidenziazione di l'inizio di una rivoluzione nel nostro approccio con il cibo, che naturalmente noi di Slow Food vediamo come un fatto molto positivo, cioè torniamo ad occuparci di che cosa ci mangiamo, torniamo ad essere interessati a chi lo produce. Un tema che piace molto anche a nostra Elena Rovera, e adesso sentiremo. Certo, qui certo. Sì. No, ma infatti la conosco e so che questo è un tema che le sta a capo. No, nella vostra scheda introduttiva c'è un passaggio che secondo me era molto curioso da questo punto di vista. La giornalista parlava dei classici tradizionali carrelli della spesa che vengono sostituiti in parte da questi mercati contadini. Ora, è vero che ormai li chiamiamo classici tradizionali carrelli della spesa, ma se ci pensiamo i supermercati sono nati nel 1930 negli Stati Uniti e sono arrivati a metà degli anni 50 in Italia, cioè non è che fanno parte della nostra storia, del nostro costume, quanto invece i mercati che hanno sempre fatto parte della nostra storia, del nostro costume. E infatti è data anche la vocazione agricola del nostro paese, non si capisce perché oggi si debba parlare, come dire, di una rivoluzione, di qualcosa che dovrebbe essere assolutamente normale, esatto, invece in Italia, frequentare l'agricoltura, i luoghi dell'agricoltura. Esatto. Certo. Dopodiché appunto quello che sta accadendo è che dobbiamo rieducarci a questo tipo di commercio e di consumo anche, e quindi il passaggio non è rapido, non è immediato, e magari all'inizio ha anche delle difficoltà che però richiedono proprio la collaborazione di tutti. Noi di Slow Food, i nostri mercati della terra, li realizziamo creando dei comitati dove dentro ci sono i produttori, ci siamo noi di Slow Food, e facciamo anche intervenire i cittadini, proprio perché la crescita del progetto deve essere condivisa, si fa nell'interesse di tutti, come diceva anche prima Toni De Amici, se non è soltanto mirato a tutelare una parte, cioè quella dei produttori. È fatto per tutti e quindi tutti devono contribuire, dalla voce prezzi alla voce prodotti esposti. Noi per esempio di Slow Food, il nostro progetto è molto particolare, è un progetto sperimentale. Noi abbiamo dei disciplinari che sono i più severi di tutti. Noi guardiamo come distanza un massimo di 40 chilometri, noi abbiamo disciplinari di produzione per ogni prodotto che mettiamo. Benissimo. Bordese, la interrompo, ci racconterà poi esattamente cosa definisce il vostro disciplinare. Io però volevo andare anche ad Elena Rovera, perché altrimenti penserà che l'ho fatta venire qui a Milano. C'era già stamattina che l'ho fatta venire in studio per scherzo, perché insomma credo che condivida molte delle posizioni espresse da Roberto Bordese di Slow Food. E però c'è una cosa in più, perché se Maometto non va alla montagna, allora è la montagna che va a Maometto. Voi avete fondato Agrispesa, e per chi non può venire a comprare direttamente nella vostra cascina, allora gli date l'opportunità di, come dire, di raggiungervi attraverso il canale telematico, perché insomma anche l'approccio diretto con il produttore può avvenire anche attraverso il web. Elena Rovera è presidente della cooperativa Cornale di Magliano Alfieri. Dove siete esattamente? A Cuneo d'Asti? È in provincia di Cuneo, Magliano Alfieri, ma ai confini con la provincia di Asti. Allora, cosa significa partecipare ad Agrispesa? Partecipare ad Agrispesa significa collegarsi direttamente con un gruppo di produttori. Siamo una trentina di aziende agricole associate, prevalentemente piemontesi, liguri e qualcuna da qualche altra parte d'Italia. Ci siamo organizzati provando ad esporre su un sito internet settimanalmente i prodotti che avremo disponibili la settimana successiva. Le persone possono andare sul nostro sito www.cornale.it e scegliere quello che vogliono acquistare. Quindi il sito è cornale.it, non è agrispesa. cornale.it. Cosa abbiamo questa settimana in vendita? Abbiamo ovviamente gli asparagi, anche perché queste piogge, questi caldi li hanno fatti improvvisamente crescere, no? Quindi abbiamo dovuto ieri raccogliere tanto. Abbiamo gli asparagi, abbiamo degli spinaci, abbiamo delle bietole, dell'insalata, e poi le carni, i latti, i salumi, i formaggi, la frutta, in questo momento ancora mele e kiwi essenzialmente. Però insomma ogni settimana il parco prodotti naturalmente varia. Varia, noi lo pubblichiamo sul sito, e dal venerdì al mercoledì le persone possono andare a comporre la spesa. Noi rendiamo pubblico il prezzo che viene pagato all'agricoltore e anche quello che è invece il ricarico necessario a far vivere questa organizzazione. Quindi spiegate esattamente come è composta la vostra filiera, che porta naturalmente al prezzo finale. C'è quindi una possibilità di tracciabilità completa. Io so sempre chi è la persona, l'agricoltore che ha prodotto il cibo che sto acquistando, so quale prezzo viene riconosciuto, quale prezzo pagherò, so da dove arriva esattamente. Quindi lavoriamo per dare la serenità assoluta di una fiducia che può ancora esistere tra chi il cibo deve acquistarlo e chi il cibo lo produce nel rispetto della terra e degli animali. Ecco, naturalmente per rassicurare gli ascoltatori sul fatto che ovviamente anche per voi il tema della vicinanza fra chi consuma e produce è fondamentale, più di 4 regioni non servite? No, noi serviamo solo infatti Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta. Certamente bisogna utilizzare i prodotti della stagione. Mm-hmm. Questo per noi è evidente. È la filosofia basilare, direi. Benissimo. E allora andiamo a comprare frutta e verdura direttamente dai produttori. Non parliamo più di farmer market, perché insomma il termine inglese infastidisce qualcuno. Chiamiamoli in italiano, anche se viviamo in un mondo globale. E allora frequentate questi luoghi, cercate la qualità del prodotto, cercate risparmio, cercate tutte e due le cose. Insomma, che cosa vi orienta verso questi luoghi? Susanna da Torino, buongiorno. Buongiorno, io è un po' che sono in attesa e quindi ho sentito in parte alcune risposte alle mie domande. Fondamentalmente vorrei soltanto sapere meglio chi controlla i terreni in cui sono coltivati, no, questi prodotti, come, se con cimi chimici, se con concimi naturali. Sì. Ecco, nell'ambito dei comuni, per esempio, c'è un organismo dedicato a questo, oppure c'è il mercatino del chilometro zero, ci sono questi produttori che portano i loro prodotti, però il mio dubbio è sempre stato: ma chi avrà controllato come sono tirati su questi prodotti? Benissimo, Susanna, sentiamo se queste sono delle regole anche chiaramente definite, anche per esempio dal disciplinare di Campagna Amica di Coldiretti, piuttosto che dei mercati della terra di Slow Food. Adesso ci andiamo, sentirei anche qualche altro ascoltatore come Maria da Trento, che pure sta attendendo da un po'. Maria, buongiorno. Maria, guardi, io la sento malissimo. Adesso faccio recuperare la sua telefonata da Gaia, così almeno la possiamo sentire meglio. Quindi passiamo ad Antonella da Viterbo. Tante donne stamattina, mi stupisce, perché è abbastanza inconsueto. Nelle ultime occasioni avevamo avuto più ascolto maschile rispetto a questo argomento, ma ci fa molto piacere che anche le signore abbiano così a cuore la salute della propria famiglia. Antonella. Buongiorno. Buongiorno. Io mi volevo ricollegare un po' alla domanda che aveva fatto Sanna. Infatti anche io mi chiedevo come possiamo sapere se questi prodotti sono biologici oppure, non so, sono coltivati comunque con tecniche non tradizionali, ma comunque utilizzano poi concimi e mangimi e che quindi non rendono poi il prodotto biologico. Grazie. Io, Antonella, esempio, sì, mi dica. Sono in questa zona di comunque tradizione agricola, è comunque molto difficile trovare prodotti biologici così garantiti. Infatti c'è solamente un negozio a Viterbo che comunque ha prodotti biologici. Antonella, però io credo che stamattina non stiamo esattamente concentrando la nostra attenzione, perché qui rischiamo di fare altra confusione proprio sul tema biologico. Toni De Amicis, Campagna Amica di Coldiretti. Intanto direi di rassicurare gli ascoltatori sul controllo che viene fatto ai terreni dove coltivano i vostri associati che aderiscono poi a Campagna Amica. E poi facciamo anche la differenza con tutto l'ambito biologico, perché stamattina non stiamo esattamente parlando di quello. Certo, guardi, intanto una cosa, noi non li chiamiamo farmers market, ma li chiamiamo mercati di Campagna Amica. Due, volevo dire alla consumatrice che è andata al mattatoio, quello non è un mercato di Campagna Amica, per questo ha trovato quelle situazioni. Se lei viene per esempio nel nostro mercato, che è lì vicino al Circo Massimo, troverà tutta un'altra situazione, cioè trova un mercato con i cartellini, con i prezzi, dove c'è la provenienza chiara e così via. Sul sito di Coldiretti, da Amici, possiamo trovare i luoghi dove siete. Campagnaamica.it. Trovate tutti i nostri mercati in Italia. La signora di Viterbo, per esempio, può andare in via Francesco Baracca tutti i sabati, trova un mercato di Campagna Amica eccezionale, con prezzi davvero, davvero molto buoni. Riguardo ai controlli, in effetti questo è il vero tallone d'Achille dei farmers market indistinti, cioè nessuno li controlla, quindi si può cascare bene come si può cascare male. Nei nostri mercati di Campagna Amica invece noi prevediamo un autocontrollo del produttore, prevediamo un monitoraggio che fa la Fondazione Campagna Amica, di cui io sono il direttore, e poi abbiamo un ente terzo, cioè quindi neutro, autonomo rispetto a noi, che va a controllare a campione le aziende agricole e i mercati che si svolgono in tutta Italia. Questo è il nostro sistema. Benissimo. Rovere, invece per quello che riguarda la vostra cooperativa, qua neanche a dirlo, avete bisogno di un ente terzo che venga un po' controllate le modalità con cui coltivate i vostri terreni. Quanti ne avete peraltro complessivamente? Quanti ne coltivate? Insomma, ciascuna azienda, le nostre sono veramente aziende piccole, di piccole dimensioni, a conduzione familiare, o sono cooperative che riuniscono aziende di piccole dimensioni. Il controllo, poi ciascuno è libero di aderire o no alle certificazioni biologiche o di fornire una sua propria autocertificazione. E il controllo per noi è diretto ed è evidente, è la conoscenza delle persone. Però interessante delle sentire aziende. Che c'è molta sensibilità intorno a questo. Certamente, ma in effetti avere la tracciabilità totale, sapere cognome e nome, sapere l'indirizzo dell'azienda, che cosa è meglio per potersi confermare. Può sempre esistere l'uscita, si può andare a visitare. Ecco, noi facciamo da questo punto di vista, come Agrispesa, è un po' l'organizzazione che mette insieme i produttori che hanno aderito a un regolamento, quindi con una certa modalità di coltivazione, di allevamento dichiarate anche sul sito, e invece il consumatore che cerca soprattutto di potersi fidare. Quindi non è tanto di farsi certificare da enti terzi, ma di avere la certezza che se vado a visitare quell'azienda io troverò ciò che mi viene detto. Quindi chi vi cerca esclusivamente per perseguire questo obiettivo, ma il tema del prezzo come viene, come dire, affrontato con voi? Ecco, le persone che per passaparola normalmente arrivano ad Agrispesa sono persone che hanno affrontato il tema del cibo con un rinnovato buon senso, con un'attenzione a tanti elementi. Non è solo una questione di gusto, non è solo una questione di prezzo, è una questione di mettere insieme e di orientarsi con spirito critico. Quindi il prezzo deve essere quello corretto, quello che permette di pagare il lavoro delle persone e di dare un prodotto di reale qualità. Infatti. Allora, Stefano da Modena, per poi tornare a Roberto Burdese. Stefano, buongiorno. Ah, buongiorno a tutti, sarò brevissimo. Io sono un agricoltore e partecipo al mercato della terra di Slow Food di Bologna. Bene. E sono un allevatore di un presidio Slow Food, che è la vacca bianca modenese. Cosa dire sui mercatini? Io credo che in poco tempo due cose bisogna dirle. Che intanto nei mercatini è possibile reperire prodotti assolutamente unici e che non sono in commercio. E poi, cosa più importante, a mio avviso, è che il mercatino è un primo passo per conoscere il contadino e poi tornare in campagna, tornare a conoscere queste persone che ancora producono o allevano animali o vegetali ancora in modo tradizionale o naturale, conoscerli, capire la storia, capire che prodotto fanno. Il prezzo, voglio chiudere sul prezzo. Esatto, chiudiamo lì perché sa, qua è pur sempre salvadanaio, Stefano, quindi lì ci devo andare per forza. È inutile che noi paragoniamo sempre prodotti fatti in modo tradizionale, fatti ancora in modo manuale, in modo sano, con i prodotti industriali. Se noi paragoniamo sempre il prezzo, non c'è bisogno di venire ai mercatini. E la grande distribuzione ci soddisfa pienamente. Abbiamo polli a poco più di un euro, abbiamo roba a bassissimo prezzo. E infatti abbiamo anche le fragole che arrivano dalla Spagna, come mi raccontava prima Elena Rovera, ad un euro e mezzo al chilo. Stefano, io la devo salutare, purtroppo la sentirei molto volentieri, ma ci manca un minuto di tempo prima dei saluti, per cui chiudo magari con Roberto Burdese, se riesco, con una battuta anche con Anna Maria Capparelli, ma non so se ce la farò. Burdese, intanto abbiamo intercettato un vostro testimonial e quindi le ha rubato anche il mestiere, ha raccontato esattamente quello che fate sul territorio. Quanti mercati di Mercati della Terra fino a questo momento e quanti ne avete intenzione anche di avviare? Ma al momento ne abbiamo soltanto avviati 7 nord e centro Italia, però ce ne sono parecchi che sono in partenza. Solo 7 perché? Prima di tutto noi, come dicevo prima, stiamo cercando di applicare dei disciplinari molto rigorosi che siano anche un banco di prova per altre associazioni. Noi non è che di mestiere vogliamo vendere i prodotti nei mercati, noi vogliamo creare delle esperienze che, se funzionano, possono essere clonate. Quindi grande selezione dei produttori, noi facciamo anche delle attività per animare i mercati. A Milano, per esempio, a Largo Marinai d'Italia, ogni mezz'ora prendiamo un prodotto da un produttore, lo presentiamo al pubblico, facciamo venire le scuole, insomma creiamo momenti anche di attività. Ecco, ma al di là diciamo della vostra attività, 10 secondi di tempo per dare un ultimo suggerimento ai nostri ascoltatori per orientarsi bene in questo campo che sta diventando molto variegato e quindi rischia di generare confusione. Ma l'unico consiglio che sono sicuro che funziona sempre è quello di parlare con i produttori, scambiare quattro chiacchiere, conoscerli e poi magari prendere l'occasione per una gita fuori porta con la famiglia una domenica e andarli a trovare in azienda. Noi facciamo i controlli, li andiamo a visitare, però veramente mettendo nome e cognome dei produttori diciamo a tutti quanti di andarli a visitare, perché è il modo migliore per scoprire come lavoro, ne vale più di qualsiasi. Benissimo, e tra l'altro allora se vogliamo andarli a visitare vi suggerisco anche, perché Elena Rovera me l'ha proposto, di andare a fare questo simpatico picnic con le pecore di Silvano Galfione a Maniglia di Perrero, in provincia di Elena Torino. Benissimo, signori, abbiamo terminato purtroppo, ma vi rimetto insieme presto perché questo è un tema che ci piace moltissimo. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.